io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Ciao direttore. Ciao anche a te, sa chi sei, non mi ricordo più. Ci sei cascato, scemo. Franco Piattaneda, autore di questo programma che mi fa impazzire, Roberto Scaltritti in regia. 800 24 00 24, tocca a voi cari amici convocati, anche perché oggi non ne ho tanta voglia, ma sto scherzando naturalmente, ne ho voglia come, ci starebbe un altro giorno in prigione, come abbiamo fatto la settimana scorsa tra Pistorius che dice ma no, la amavo, non ho voluto ucciderla, le ho sparato attraverso la porta del bagno chiusa, pensavo fosse un ladro, eccetera eccetera. Altro giorno in prigione anche con Cellino, Isarena schiuso, lo sapete, Torino, la partita col Torino che forse, oggi cos'è, martedì, forse domenica si giocherà a Pescara. Però in prigione non ci vogliamo andare e quindi parliamo di tempi elettorali con Giovanni Malagò, nuovo presidente del CONI, battuto a sorpresa Pagnozzi 40-35 con una scheda nulla. Tempi elettorali e marcatura a uomo o a biuomo, perché oggi c'è anche questa, due uomini su Messi, dice Berlusconi, come un tempo si doveva fare su Zidane. Milan intanto si arrampica in classifica grazie anche al Siena che fa un favore a se stesso e ai rossoneri schiantando la Lazio. Tempi di panchine appunto, su quella più importante, quella del CONI, va a sedersi Giovanni Malagò. Scusi, è libero? Eh no, c'è saluto l'uomo invisibile. Oh. Allora cerco un'altra panchina. E allora, lo sentiamo, il nuovo numero uno del CONI per il prossimo quadriennio. Al microfono di Dario Ricci. Un passo avanti, due di lato. La mia emozione è talmente forte che devo solo dire grazie. Ho detto, mi ha dato fiducia. Nello sport è molto facile vincere, molto difficile anche mettersi nei panni di chi non vince. Io mi abbraccio e lo dico da sportivo, con assoluta sincerità, Vallello, vi prometto che farò di tutto per onorare quella che per me è la più importante carica che c'è nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Questo è il neo presidente del CONI, ma c'è anche un altro allenatore che riceve un sacco di telefonate in questi giorni, è Massimiliano Allegri. Messi, cioè, è un giocatore che al momento fa la differenza, ma credo non solo lui, perché anche Iniesta credo che sia uno dei migliori assist man del mondo. È un giocatore straordinario, sono i giocatori sicuramente che ti creano superiorità numerica. È normale, bisognerà essere molto bravi ad andarli a marcare e cercare di limitarli in quelle che sono le loro. Allora, ho l'impressione che invece sulla panchina del Siena non appoggerà più le natiche e Megara, che ieri sera ha fatto grandissime cose infilzando due volte la Lazio. Rubin, suggerimento per Sestu, cerca spazio per il cross, poi ancora Rubin, lascia partire il traversone, colpo di testa a rete, ancora Emegara, 1-0 per il Siena, anticipa tutti, Emegara. Insomma, questo ragazzo 4 gol in 3 partite, 280 minuti, quindi 90 più recupero, come Balotelli. Saluto e ringrazio il direttore sportivo del Siena, Stefano Antonelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Stavo dicendo che sulla panchina del Siena non troverà più spazio, credo, in Megara. Ma, guardi, fa piacere, perché fa piacere, è evidente che fa piacere. Però la cosa più importante, ecco, che che innanzitutto lui rimanga se stesso così com'è, sì, quel pizzico di incoscienza e forse di inconsapevolezza di quello che sta realmente facendo. Ecco, se rimane così va benissimo che non trovi posto in panchina, ecco. Come non lo trova Balotelli, ha segnato gli stessi gol nello stesso numero di minuti, E allora evidentemente Balotelli non troverà posto in panchina nemmeno in gara. Cioè, senta, ma è vero quello che ho letto, che corre i primi 10 metri di sprint in un secondo e 68 volte, insomma? Ma guardi, non gliel'abbiamo mai valutati nei test questi tipo di prestazioni. Quello che le dico è che è stato tutto molto veloce, il suo inserimento, il suo ambientamento, il suo modo di essere, che lo ha aiutato moltissimo, perché lui è arrivato in realtà 3 giorni prima di andare a giocare a Udine. Sì. E quindi diciamo che lui è arrivato il 24 di gennaio da noi, e quindi è stato tutto talmente veloce, tutto talmente così come è lui nel campo, insomma, così tutto molto immediato, molto in sprint. Ora l'unica cosa che dobbiamo fare è quella di proteggere quanto sta facendo di buono. Io parlavo prima di simpatica incoscienza, lui sì, fa tutto molto spontaneamente, e se riesce a rimanere così probabilmente si toglierà tante soddisfazioni e ci darà una grande mano a noi. Lei sa che io glielo chiederò, quindi lo faccio subito. Quanto vale? Ma no, ma questi sono, guardi, sono tantissimi anni, ormai credo che sono 19 anni che sto in questo mondo, sì, e dico che poi per i grandi calciatori o comunque per talenti tipo Megara, poi il mercato si fa da solo, si fa piano piano, il prezzo diventa non quello che fai tu, è quello che fa il mercato. È quello che fa il mercato e quello che fanno i gol. Sì. Fatalmente. Sì, evidentemente sì. Senta, Stefano Antonelli, direttore del Siena, le chiedo 30 secondi di pazienza perché devo lanciare il traffico e poi chiudiamo la nostra chiacchierata, anche perché insomma meno 4 dal traguardo parziale per il Siena, che sarebbe comunque già raggiunto, perché di punti sono 21, ma si... cioè si leggono 21 ma sono 27 quelli che avete fatto. Ne parliamo dopo. Strade. Meno pensiamo e più siamo forti. Tutti convocati. Stefano Antonelli, direttore del Siena, spero che lei non si debba muovere verso Venezia. Mi auguro no, di no. Per carità, no. Senta, già battuta l'Inter 2 settimane fa, ieri la Lazio, correte per voi ma correte anche per il Milan, con una salvezza che a questo punto, insomma, bisogna fino all'ultimo provare ad inseguire, perché mi pare che questa squadra ne abbia le potenzialità, basta leggere i punti virtuali, come dicevo prima. La sostanza dice che abbiamo 21 punti e che stiamo sicuramente rincorrendo dal primo giorno di ritiro estivo, e che sicuramente è un percorso molto molto molto particolare, molto duro, però sicuramente abbiamo un gruppo che ci sta dimostrando giorno dopo giorno, nelle difficoltà ma anche nelle cose positive, di essere un gruppo forte, un gruppo importante dal punto di vista oltre che calcistico anche morale. Questo sicuramente sta contribuendo molto al fatto che noi siamo ancora lì in corsa, nonostante tutto, con grande dignità, e adesso ci proviamo fino in fondo. Beh, ma mi sembra giusto così. Si aspettava più Lazio ieri sera, dica la verità. Ma noi nel preparare questa partita pensavamo che Lazio fosse sinceramente, dopo la Juventus, la squadra più forte del campionato. Ha talmente in tutti i reparti calciatori importanti. Avevamo visto la partita con Napoli, avevamo visto la partita a Mönchengladbach, avevamo visto una squadra aggressiva, temperamento, qualità, carisma, aveva un po' tutto. E di sera sinceramente, come sai, quando sono queste partite non sai mai quali sono i meriti di chi non ti fa giocare o di chi non ha giocato. Sicuramente una Lazio sottotono, però insomma non vorrei con questo andare a depauperare quello che è stato il grande merito nostro e della squadra, insomma. Ho ancora 2 domande per lei. La prima è difficile. Montepaschi, caso Montepaschi, è impossibile che non provochi quantomeno un po' di preoccupazioni per il futuro. Ma guardi, personalmente mi occupo di parte tecnica e non è, con questo non voglio dire che non ho mai affrontato l'argomento, però veramente noi ci siamo isolati da tutto questo, noi stiamo pensando a fare calcio, a fare bene sul campo e inevitabilmente tutto il resto non deve interessarci. Sul campo non arriva comunque questa preoccupazione? No, evidentemente no. Evidentemente no. Un'ultima cosa, Malagò alla presidenza del CONI e un uomo su Messi, come li vede questi due argomenti? Faccio un grandissimo in bocca al lupo al presidente Giovanni Malagò. Voglio dire, anche il dottor Pagnozzi sicuramente sarebbe stato un illustre e straordinario presidente, però ho la sensazione, insomma, che con Malagò si possa far qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, importante per il futuro. E quindi gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi sembra difficile, come ha detto Petrucci, fare il consiglio senza la partecipazione e fare le riforme senza la partecipazione del calcio, Ma questo è evidente, ma leggevo già un'ansa dove parlava Damiano Tommasi. Sicuramente sarà un percorso ancora una volta che porterà, insomma, a un dialogo e spero che sia poi alla fine un percorso virtuoso. Per quanto riguarda l'uomo su Messi, ma sapete che io penso che il Barcellona sia una squadra incredibile. Quando tu poi metti un uomo su Messi, voglio capire chi metti poi su Iniesta o su Xavi e quant'altro. Se cominci a pensare a quanti uomini devi mettere, penso che devi comunque avere due squadre a disposizione. Allegri sa perfettamente quello che dovrà fare, anche lui a disposizione una squadra importante. Se poi la partita, chiaramente quando giochi contro il Barcellona, sicuramente Messi è il calciatore più importante al mondo, ma il Barcellona non è Messi, il Barcellona è il Barcellona che... D'accordissimo con lei. Se cominci a pensare a fermare Messi, cioè a fermare Barcellona fermando Messi, hai già sei su una cattiva strada, secondo me. È una squadra straordinaria con quei due lì in mezzo che sono qualcosa di straripante. Quindi se veramente stai col pensiero di bloccare qualcosa, non è fare la marcatura a uomo su Messi che puoi arginare il Barcellona. Grazie Stefano Antonelli. Grazie a Stefano Antonelli, direttore sportivo del Siena, che ieri, come detto, ha schiantato la Lazio. 800 24 00 24 è il numero verde e voglio sentire le vostre voci. Magari anche quella di Andrea da Pisa, che invece mi scrive un messaggio al 349-238-6666. Ma secondo lei il Milan contro Barcellona potrebbe usare la bizona di Oronzo Canà per fermare Messi? Confesso che è una delle cose che avevamo pensato anche noi. Però poi abbiamo sentito Allegri che ha appena parlato e che mi sembra un po' più interessante. C'è un altro che scrive: ma Malagò è quello belloccio playboy con la barca che mettono sempre su Dago Spia? Ho l'impressione che sia lui. Oppure chi scrive: ma è lo stesso Malagò dei casini per i mondiali di nuoto a Roma? Beh, siamo in Italia, ciao Marco. Sì, è lo stesso Malagò, assolto però da quelle accuse. Ricordiamo che era presidente del comitato organizzatore dei mondiali di nuoto a Roma, che dal punto di vista organizzativo benissimo non andarono. Questa speriamo sia un'altra storia. Danilo, Genova, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Volevo chiederle due domande. Io sono interista e premetto però sportivo: bellissimo il gol di Totti domenica alla Juventus, grande campione eterno. Sì. Volevo chiederle questo. Mi sembra che all'Inter purtroppo ci sia parecchia confusione da diversi anni e volevo sapere quando è che parte veramente questo progetto dei giovani, perché se si vuole puntare sui giovani, gente come Longo in primis, Livaia e Coutinho non si vanno a dare alle altre squadre. Questo e mi poi sembra ascoltato. Per la panchina sento parlare di Blanc, Simeone, ma io mi chiedo veramente, da interista, quando è che mettiamo sulla panchina un interista vero come Walter Zenga? Io spero che prima o poi Zenga, come la filosofia del Milan di mettere in panchina gente che per prima è tifosa del Milan, spero che anche l'Inter faccia prima o poi mossa questo da tifoso grande passo sulla scia di Conte alla Juventus, ma non lo so. Io sulla panchina dell'Inter in questo momento di ricostruzione magari vedrei qualcun altro, Danilo. Comunque, se avessi in tasca le risposte che lei mi fa, lavorerei per Massimo Moratti e guadagnerei un sacco di soldi, quindi non lo so quando parte il progetto dei giovani. Certo è bizzarro il fatto che si crede in Livaia, lo si fa giocare qualche spezzone di partita lo si cede metà del giocatore, se non ricordo male, all'Atalanta per avere Schelotto, che non mi sembra sia in questo momento utilissimo al progetto di Stramaccioni. Si prende Rocchi, che non gioca mai, lo si paga 800.000 euro di contratto fino al termine della stagione, e anch'io ci capisco pochino in questo quadro, in questa prospettiva. Andatevi a vedere come ha fatto Franco Piantanida i punti comunque che l'Inter ha fatto con Milito, mi sembra 2.5 a partita, senza Milito 0.4 a partita, e poi riparliamo dell'importanza comunque di questo giocatore per l'Inter. Però tant'è. Vincenzo Salerno, buongiorno. Salve dottor Genta, grazie. Ciao, Vincenzo. Per essere stato convocato, e complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io mi ricollego a lei a proposito dell'Inter e anche dell'ascoltatore precedente. Io penso che dalle mie parti a Salerno, ma penso che anche dalle sue parti, c'è un proverbio che dice che chi è causa dei suoi mali pianga se stesso. Io penso che Moratti e la società Inter da 18 anni siano vittima di, forse di incapacità, di magari di vedere, ecco ad esempio, le faccio un esempio. È stato pronto? Sì, la sto ascoltando. 18 anni mi sembrano tanti, mi sembra in quei 18 qualcosa sia successo. Perché io le faccio un esempio da una società forse incapace o incompetente. Hanno comprato in questa campagna autunnale centrocampisti e difensori, liberandosi di centravanti, lasciando solo Milito. Cioè, è una cosa assurda. È veramente trovarsi una squadra che lotta per la Champions League senza un centravanti. Questo si è una cosa veramente da società incompetente, incapaci. Cioè, forse nemmeno una squadra del Sudafrica, con rispetto parlando, di una terza categoria, sarebbe mai arrivato a pensare di lottare per un posto in Champions League e privarsi di tutti i centravanti, lasciando solo Milito a 34 anni. Sì. Sì, c'è qualcosa di Vincenzo, al di là della, insomma, i suoi toni sono molto duri da tifoso, però c'è qualcosa di difficilmente comprensibile nelle strategie di mercato dell'Inter, sia da questo punto di vista, sia dal punto di vista, come sottolineava l'ascoltatore precedente, delle partenze dei giovani su cui sembrava l'Inter dovesse puntare o credere. Coutinho su tutti, ma anche Di Vaia, che era stato all'inizio lanciato in alcune partite, non è anche fatto male per la verità. Fatico a comprendere la cessione di Livai all'Atalanta e l'ingaggio di Rocchi, che per adesso non si è ancora tolto la cuffia dalla panchina invernale di quest'inverno che non finisce mai. Dario Ricci da Roma, elezione del CONI, ciao Dario. Ciao Carlo, grazie per avermi convocato. Convocato tu anche tu sempre, naturalmente, in ogni occasione, ma Malagò è quello belloccio playboy con la barca che mettono sempre su Dago Spia, scrive un ascoltatore, lui? Eh sì, è proprio lui, che insomma, carriera del playboy, curriculum considerevole, direi, anche da manager per la verità, e ora tutto da scrivere invece è il curriculum da nuovo presidente del CONI, elezione che, come abbiamo detto, è arrivata a sorpresa, grande favorito della vigilia, Nello Pagnozzi, il vice, il segretario del CONI sotto la gestione Petrucci, era accreditato di 45 voti e invece poi nell'urna tutto è cambiato, 40-35 il voto di questa mattina a favore di Malagò, Carlo. Binaghi, presidente della Federtennis, ha parlato di un'imboscata, ha vinto la maggioranza nascosta, ha detto Angelo Binaghi. Ci sono invece commenti di altra natura che arrivano, manco a dirlo, dalle signore, da Federica Pellegrini: sono felice per l'elezione di Giovanni Malagò presidente del CONI, la parola che anche oggi ha usato è che più di tutte è una qualità che gli riconosco, è coraggio. Governo dello sport italiano in ottime mani, Federica Pellegrini. Lo stesso per Alessandra Sensini, che va in consiglio: in Italia c'è voglia di cambiamento in tutti i settori, oggi è un bel giorno. Josefa idem, si sente che c'è voglia di cambiare, un buon auspicio, sarà un quadriennio diverso rispetto agli ultimi anni che abbiamo dovuto sopportare, e aggiungo io questa dedicata a Gianni Petrucci. Dario, ma non è possibile fare un Consiglio federale delle riforme consistenti senza la partecipazione del calcio. Questo l'ha detto Petrucci, ma lo penso anch'io. E lo pensa anche di fatto, che ha chiarito proprio pochi istanti fa questa sua posizione rispetto al calcio, ha detto non ho voluto essere ipocrita nella fase di campagna elettorale sostenendo altri 5 presidenti federali e non il calcio, perché il rapporto tra CONI e calcio, ha detto il neopresidente, deve essere vantaggioso per entrambi. Di fatto poi Abete, presidente della Federcalcio, in giunta è entrato e quindi detto Malagò ha preso atto con soddisfazione di questo risultato, sottolineando sia il rapporto personale estremamente positivo che ha con lo stesso Abete, sia il fatto che il calcio è assolutamente parte integrante del nostro sistema sportivo, Carlo, però deve esserci un rapporto di reciproco vantaggio. Staremo a vedere ora come lo declinerà questo concetto Malagò, che ha detto soprattutto ora bisogna rimboccarsi le maniche, per primo lui, direi. Grazie Dario, buon lavoro. Grazie a voi. A più tardi. Grazie a Dario Ricci. Ci fermiamo per la borsa, poi vi aspetto. 800 24 00 24, numero verde, tutti qui convocati. Va Burdis a cercare di fermarlo, il cross di Anvedi, autogol Goicoechea. Tutti convocati. I suggerimenti del presidente, quando parliamo lui esprime le sue idee, i suoi pensieri, e io li accetto ben volentieri, perché anche lui dopo 25 anni di Milan, 26 anni di Milan, è un uomo di calcio, credo che è il presidente che ha vinto più di tutti al mondo, e quindi li accetto ben volentieri. È normale che poi io vivo la squadra tutti i giorni, cercherò di mettere in campo e dare delle indicazioni ai ragazzi, quelle che sono secondo me migliori per affrontare questo Barcellona. Dunque Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa, dice vabbè, Berlusconi ci capisce, insomma ha fatto anche l'allenatore, vi ricordate, magari ad altro livello, però telefona spesso, io ascolto i suggerimenti del mister e poi vediamo. Consigliamo ad Allegri di staccare il telefono magari nelle prossime ore. 800 24 00 24 invece voi tenetelo acceso e chiamateci, mandateci anche magari qualche messaggio. Questo: Berlusconi spera nel triplete, Milan vittorioso su Barça e Inter e lui che vince le elezioni. Prime due anche, ma la terza neanche, se mette Flamini e Montari su Bersani. Non so cosa ne pensate voi, ma francamente in questo spazio in cui potete parlare di sport e di ogni sport mi interessa poco di Flamini e Montari su Bersani. Invece mi interessa il fatto che gli uomini da uno sono diventati due, perché Berlusconi l'ha detto stamattina, due uomini addosso a Lionel Messi. Per esempio Flamini, magari uno per tempo, se si stancano troppo e subentra un altro. Comunque, ha aggiunto Berlusconi, Messi è un grandissimo campione, il Barcellona è la squadra che nella storia del calcio ha giocato il miglior calcio, dopo il nostro Milan di Sacchi, attenzione, dopo il nostro Milan di Sacchi e degli olandesi. Quindi, comprerà Messi? Gli è stato anche chiesto? No, sono diventato povero, ha risposto Berlusconi questa mattina. Poi vi vendo qualche altra notizia di oggi, vera o fasulla. C'è il Daily Mail oggi che in Inghilterra scrive che Mancini potrebbe essere silurato dai Citizens, dal Manchester City, nonostante lui dica negli ultimi 15 mesi sono stato il miglior manager d'Inghilterra, ho vinto prima la FA Cup e lo scorso anno la Premier League, nessuno ha fatto meglio di me, questo lo dice Mancini. Però ci sarebbe pronta, attenzione, secondo il Daily Mail, un'offerta della Roma, contratto pluriennale da oltre 5 milioni a stagione, mica paglia. Allora, poi vabbè, le dichiarazioni di Pistorius, qui andiamo un giorno in prigione, non ho voluto ucciderla, lo affermo nella maniera più categorica possibile, ci amavamo alla follia, dice Pistorius in aula, in lacrime, e poi sostiene questa tesi, peraltro, ragazzi, bizzarra, era convinto che ci fosse un intruso in bagno, per questo ha sparato attraverso il vetro uccidendo la fidanzata, quindi ha rotto il vetro con una mazza da cricket dopo essersi accorto di aver sparato contro di lei per tentare poi di rianimarla. Questo è il racconto di Pistorius, caso che mi fa una tristezza infinita. 800 24 00 24. Stefano, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Carlo. Buongiorno Stefano. Quindi emozione, però. Okay, emozione di che? Oh, au. Emozione di... sento tutti i giorni. Vabbè, non posso mai telefonare perché lavoro, no? Allora non giro malato. E no, niente, volevo sapere lei cosa ne pensava, non so, cioè io un po' simpatizzo per il Milan, però ho un odio sconfinato per Berlusconi che dà suggerimenti a tutti. Vabbè. Questi presidenti che, non so, anche come Zamparini, non è che... Cioè, che andassero beh, insomma, loro in panchina, non lo beh, so. Insomma, tra Berlusconi, tra Berlusconi e Zamparini direi che ne corre anche a livello di, insomma, di passato vittorioso, no? Ma al di là delle diverse realtà, però voglio dire, Berlusconi ha qualcosina ha vinto, da che alla guida del Milan. Ho capito, ma non è che ne sapeva gli allenatori che diciamo, ma lei mi dica quale presidente non mette becco nelle scelte dei suoi allenatori, cioè che si sappia o non si sappia. È chiaro che Berlusconi lo grida ai 420, però io credo che siano davvero pochi i presidenti che non vogliono, comunque per una ragione o per l'altra, o per monetizzare gli investimenti o perché hanno le loro convinzioni, siano pochissimi presidenti, e questo lo estendo a tutti gli sport, che non abbiano la voglia comunque di entrare nella costruzione del giocattolo. Questo davvero. Quindi lo ripeto, ma Allegri è sufficientemente furbo per rispondere come ha fatto prima, no? E per alla fine fare le scelte che riterrà opportune, perché è un allenatore, come lei sa meglio di me, non granché supportato dalla proprietà. Credo che sia all'ultima stagione al Milan comunque vada, salvo vittorie che mi sembrano impossibili più che improbabili. Però si è sempre saputo muovere anche in questa situazione di difficoltà con grande furbizia, e lo ha fatto anche oggi. Quindi ha sentito la risposta che ha dato all'ovvia domanda in conferenza stampa, lo ascolto, ci parliamo spesso, ci confrontiamo, d'altra parte ci capisce di pallone, poi vedremo che fare. Sono curioso anch'io di capire se ci sarà una marcatura uomo su Messi, cosa che mi sembra abbastanza inutile, visto che insomma non si tratta di fermare il più forte giocatore del mondo, ma si tratta di fermare la più forte squadra del mondo, e questo onestamente mi sembra oltre le capacità di questo Milan, pure in scalata continua alla classifica di Serie A, in uno splendido momento di condizione. Cristian Pisa, 800 24 00 24, siete convocati sempre e tutti. Buonasera dottor Genta. Salve Cristian. Salve, buonasera, tifoso interista. Mi riallaccio al dice buonasera, perché nonostante essendo giorno, nonostante sia giorno, magari c'è anche il sole a Pisa, vede tutto nero. Un bel sole ma molto nero. Buonasera. Riallacciandomi all'ascoltatore di prima. Sì. Io non so, allora, due quesiti: Volatti ha finito i denari o gli hanno stretto i cordoni intorno alla famiglia? Come fa a spendere 15 milioni o 13 per un ragazzo di 18 anni che tutti sembra che volessero, ma nessuno ha cantato? E poi si va a comprare i vari Schelotto, i vari Kuzmanovic, gente Rocchi che non serve a niente. Partiamo veramente da una rosa giovane, partiamo 4-5 anni, e sono figure che possono essere concesse a dei ragazzi, ma non prendere 4 gol con la Fiorentina, e stando a me potevano anche essere 7-8 e sarei stato più felice. Sì. E farsi alzare una testa come Branca, anziché tenere un professionista serio e attaccato alla maglia come Oriali. Questo era il mio questo è un discorso che arriva da... No, ma Cristian, suo pensiero legittimo è già noto, insomma, molti tifosi dell'Inter fanno coincidere con la partenza di Mourinho, ma anche di Oriali, che è stata contemporanea, questa incapacità di ricostruzione dell'Inter secondo linee precise. Quindi le critiche ci stanno. In realtà Kovacic è un prospetto, un talento, è uno che può essere un investimento per il futuro. Kuzmanovic è un buon giocatore, però mi sembra che a Stramaccioni sia venuto a mancare proprio il materiale, perché quando insomma si parla di Gargano, quando si parla di del 39enne Zanetti, gloria a lui nell'eternità, lo so bene, il capitano eccetera eccetera, però 39 quasi 40 anni, quando si parla di Cambiasso, stesso discorso, però giocatore ormai insomma, usurato, consumato, poi i ricambi sono Gargano, Mudingai, insomma non mi sembra gente da Inter questa, semplicemente non mi sembra gente da Inter. Per prendere gente da Inter bisogna spendere molti soldi ed evidentemente non so quali siano le finanze a disposizione di Moratti, però ci vogliono i quattrini, che in questo momento, fair play finanziario o no, non mi pare che l'Inter abbia intenzione di spendere nella misura che servirebbe per rifare una squadra competitiva. Ugo Salerno, buongiorno. Buongiorno a lei e ai vostri radioascoltatori. Ciao Carlo, una due domande veloci. Prego. La prima, perché in Italia, a parte gli stati che è una situazione complicata, ma perché dobbiamo ancora assistere complicata. Lei la chiama complicata ed è bravissimo, la chiama complicata, io dico solo io dico disastrosa, deplorevole, schifosa e indegna. Bravo, cioè esatto. Potrei usare qualche altro aggettivo, ma a quest'ora ci sono magari anche i bambini all'ascolto. Io dico solo che credo che neanche nel campionato del Burundi ci sia una partita che è in programma tra 5 giorni e come al solito non si sa dove si andrà a giocare. E su quale terreno, che sono dei terreni di gioco che sono all'età della pietra, una cosa incredibile. Terreni di gioco, mettiamoci dentro anche quelli. Prima ho visto che rizzollavano Napoli, mettiamoci dentro anche i terreni di gioco. Infatti diceva poco fa un tifoso, è possibile che una partita così importante probabilmente si giocherà su un terreno, su un fondo che, diciamo, chiamarlo fondo già è un complimento. Quale? È una cosa incredibile. Ascolti, l'altra domanda è questa. Mi sa che il Milan, io sono tifoso della Sanitana e simpatizzante del Milan, sì, e spero che la mia squadra Granata in 2-3 anni, spero, vada nel calcio, diciamo, in Serie A, Serie B. Questa è una speranza. La domanda è questa. Mi sa che il Milan, zitto, la politica dei giovani mi sa che la sta portando avanti a fari spenti, ma con ottimi risultati. A fari accesissimi. Che dice? Prendere più fari accesi che prendere Balotelli, non si può fare, caro Ugo da Salerno. Anche perché mi perdoni, mi consenta. Altri ragazzi della primavera che si stanno facendo esperienza, e poi alcuni giovani interessanti che penso che Allegri prima o poi porterà in prima squadra. Detto questo, complimenti per la trasmissione. Grazie. E se mi consenta, forza Salernitana. Va bene, forza Salernitana, sperando che insomma sia una società forte, non come è accaduto in passato, e quindi bocca al lupo alla Salernitana, soprattutto dal punto di vista societario, mi raccomando. Sì, lo so che Lotito è presidente della Salernitana, ma su questo glissiamo, perché sarebbe un discorso molto lungo. Strade, poi torniamo con gli ascoltatori. E secondo me Sansone ieri mi ha ricordato un po' Messi. Tutti convocati. Arriverà qualcuno che si prenderà il mio posto, allora io starò solo a guardare. E proprio adesso che ci penso mi ricordo quante volte non ti ho persa per un pelo. Ma solo con te, ma tu non ho bisogno neanche di pensare e svegliarsi la mattina. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. Lo voglio fare davvero, basta un attimo. Sì, però è una sveglia presto, normale, come è accaduto tante altre volte quando c'è la settimana in cui sottoponiamo gli atleti a dei test, no? Sia di test clinici, cioè di test di esami del sangue, quindi mattina presto, 8 per le 8, per le 9. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. E dovevate vedere le facce dei giocatori della Juventus questa mattina sulle loro lussuosissime macchine alle 8 all'ingresso dei cancelli di Vinovo. Tutto un programma. Che poi questi test alle 8 del mattino arrivino dopo la sconfitta di Roma, chiamiamola, se volete, casualità. Adesso, amici, la state buttando in politica, eh? Io vi rileggo i vostri messaggi. In quanto a Balle Pistorius è a livello di Berlusca, scrive qualcuno, oppure su Bersani non servono Flaminia e Muntari, basterebbe il vecchio Luther Blissett in ripiegamento, scrive Piero. Pistorius, è vero che l'hanno trovato della droga nei calzini? Pistorius sarà Pistorius, della droga nei calzini mi sembra difficile una notizia di questo tipo, gli hanno trovato in casa anabolizzanti a quanto pare. Angelo Cremona, buongiorno. E buongiorno a lei, sono simpatizzante sandoriano anche se chiamo da Cremona, volevo sapere da grande lei a quanto fissava grande la salvezza quest'anno, perché vista anche la vittoria del Siena ieri sulla Lazio, quasi imprevedibile come quella della mia Sampdoria sulla Juve, però volevo sapere se quota 40 era ancora un numero da tenere valido per la quota salvezza oppure secondo lei si alzerà. Il paletto è fissato lì, lo lascerei lì dov'è, però io credo anche che la Sampdoria, guardi Angelo, faccia pure gli scongiuri che vuole, ma non dovrà tanto preoccuparsi di questo, perché mi sembra una squadra che vale ampiamente la metà della classifica e l'ha dimostrato più volte da quando è arrivato degli Orossi, soprattutto mi sembra una squadra assolutamente competitiva, ma lo dice il campo, non lo dico io. Quindi teniamo d'occhio il quota 40 come gli altri anni, insomma. Tenete d'occhio quota 40 come gli altri anni, ma ripeto, non penso che la Sampdoria avrà grandi problemi, anzi penso non avrà mezzo problema nel salvarsi, perché mi sembra una squadra, un'eccellente squadra da metà classifica, per come gioca, per l'organico che ha, per il talento che ha, per la fisicità che ha e per la condizione che possiede in questo momento. Cioè, mi sembra una squadra. Napoli l'ho vista benissimo ancora domenica. Malagò, lo sport che verrà deve fare traino per il nostro disastrato paese. Auguri. Dichiarazione del neo presidente del CONI. Sonny su Twitter: i giocatori della Juve non sono eroi a svegliarsi presto, io mi sveglio tutti i giorni alle 6.30 per andare a scuola. Ma perfetto Sonny, ma infatti, ma che eroi ed eroi, forse per me li farei allenare anche prima, visto che tutti siamo ampiamente svegli alle 8 del mattino, sottoscritto compreso, e anche Franco Piantanida e Roberto Scaltritti, sveglissimi, no Roberto Sgatretti mi dice di no. Francesco Novara, buongiorno. Buongiorno dottor Genta. Dottor Genta mi pare troppo, mi chiamo Carlo. No, volevo sapere come pensa dell'annata del Torino Calcio, sono tifoso del Toro, e soprattutto di Cerci, se davvero merita o no la nazionale. Calma e gesso. Allora, annata del Torino Calcio straordinaria secondo me. Gianni Pinotto, come si è autodefinito ieri, come ha autodefinito ieri Cairo, la sua accoppiata con Ventura, beh, mi sembra che funzioni. Il Torino sta facendo un grande campionato, è una squadra molto solida, è una squadra che gioca molto bene in trasferta soprattutto. Quanto a Cerci, che sia un talento non lo discuto, ho letto da qualche parte cose tipo il Robben del Torino, eccetera, eccetera. Ha una testa molto particolare. Dal punto di vista, ha tutto per arrivare in nazionale, ha tutto, vediamo se dipende anche da lui. Dipende da lui e dalla sua voglia e dalla sua continuità di rendimento. Cosa, sì. E di Cairo con la 7 può giovire il Torino? No, gioviarne no il Torino? No, questo non saprei, non le saprei dire, Francesco. Questo non ci ho pensato, non ho una risposta su questo, mi dispiace. Magari gliela do un'altra volta quando ci avrei riflettuto meglio. Così a occhio non mi sembra. Non vedo una stretta correlazione. Fabio Grosseto, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo soltanto telefonare per comunicare soltanto il dramma assoluto che sta vivendo lo sport in Italia. Cioè, i comuni non hanno i soldi solo per accomodare, caldare, cose varie, per mandare i nostri bimbi di 6 anni in piscina, e per 40 anni che ancora sento dire gli stessi nomi, che le parole dimissioni ai prevertici del nostro CONI non cambiano. È questo che io volevo soltanto dire, questo. Poi lasciamo stare quello che sto guardando in televisione, il tipo di mafia che c'è in Serie B, in Serie A, che intanto in Italia nessuno è colpevole e tutti vogliono essere protagonisti. Ecco, soltanto questo volevo dire. Questo è un messaggio da questo, fa bene. E le coppe, e grandi medaglie d'oro che sono venute alle Olimpiadi. Io penso sia una cosa negativa che i cittadini normali non possono accedere allo sport perché sono impossibilitati economicamente, perché quello che hanno fatto carabinieri, polizie, nostre forze armate è da elogiare, però c'è qualcosa che non funziona. Ecco, arrivederci a tutti. Fabio, sono discorsi corretti e molto seri questi, soprattutto il primo che ha fatto. È chiaro che gli sport... non trovo un'altra definizione, anche se mi fa schifo dire minori, ma come sapete, però non voglio fare della demagogia, ci siamo capiti, l'importante è capirci. Hanno trovato mezzi di sostentamento attraverso il connubio con le forze armate, se no sono atleti a tutti gli effetti che lavorano tutti i giorni da professionisti e devono comunque insomma mantenersi in qualche maniera, mantenere il loro professionismo, il loro tempo, quello è il loro lavoro, e quindi devono avere uno stipendio. Quanto alla disastrata situazione degli impianti italiani, dell'impossibilità dei bambini di fare attività fisica in luoghi decenti, senza pagare una fortuna di soldi, questo è forse il più grande problema, forse il più grande problema che ha lo sport italiano. Non me ne viene in mente uno più grave in questo momento. Allora, sentiamo un Petkovic armato di bastone e poi chiudiamo con Sebastiano. Tutti quanti dobbiamo scusarci anche a questa gente che è venuta a seguirci e questi che ci hanno purtroppo guardato in televisione, perché questa sera meritiamo solo bastonate. Questa sera meritiamo solo bastonate, ma mi sembra che la Lazio sia in piena crisi, se non sbaglio, un punto nelle ultime 4 partite, però vada a memoria. Sia in un momento di chiara flessione, ma ci può stare, secondo me, tutto considerato. Sebastiano! Buongiorno. Sebastiano, buongiorno! Buongiorno, io le volevo porre solo una domanda. Sì. Cosa ne pensa lei delle dichiarazioni di Conte dopo Roma-Juventus, quando ha esternato il fatto di aver chiesto ai giocatori chi se l'ha scritto o meno? Semplicemente se si tratta di un errore quello che ha fatto Conte, oppure lui ha messo, diciamo, le mani avanti per così poter mettere in tribuna finalmente qualcuno che non merita assolutamente di giocare in questa Juve, perché non è... Guardi, io credo che Sebastiano, guardi, io credo che Conte non abbia bisogno di ricorrere a queste sottigliezze psicologiche. Conte ha mano libera e fa quello che gli pare, quindi non semplicemente ha voluto, secondo me, mettere i giocatori di fronte alle loro responsabilità per una sconfitta che è la quarta in campionato e 4 sono tante, dicevo ieri. Per il resto, agghiacciante, comunque, agghiacciante o meno, Conte non ha bisogno di scuse per mettere i giocatori in panchino, in tribuna, come sanno benissimo ad esempio Matre Quagliarella. Ci fermiamo qui, ma torniamo domani alle 2. Presenti Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Ciao direttore. Floccari è una persona, certo, molto religiosa. Sì, lo sappiamo. Sì, che no, ma va a Giugore, va in chiesa, vive proprio una vita è molto corretto. Monastica, proprio di rispetto delle regole.